Radio 24 Reportage. Ritorno all'agricoltura. Giovani e donne 4.0 di Teresa Trillò. A volte ritornano, animati dalla passione, dalla curiosità, dalla voglia di dare una svolta alla vita, gli agricoltori riappaiono sulla scena. Sono soprattutto giovani e donne, due categorie che nel mercato del lavoro faticano a trovare spazio. E così c'è chi sceglie di tornare alla vita dei campi, ma sempre più spesso in versione 4.0. I nuovi agricoltori, allevatori o produttori di olio e vino utilizzano infatti la tecnologia per coltivare i campi o proteggere le greggi dagli assalti dei lupi. In Italia, secondo dati Infocamere aggiornati al terzo trimestre 2019 ed elaborati dalla Coldiretti, è in atto un ritorno alla terra con oltre 56.000 giovani under 35 alla guida di imprese agricole, il 12% in più rispetto a 5 anni fa. Chi torna nei campi ha tratti comuni, dice Matilde Ferretto, docente di economia e politica agraria al Dipartimento di Sociologia dell'Università Bicocca di Milano. C'è un ritorno all'agricoltura e diciamo più che in termini numerici, perché i numeri sono comunque contenuti, segnalando un'inversione di tendenza. Questo era già in atto nel 2010, dal censimento si vede, ma adesso c'è questo ritorno. Chi torna all'agricoltura? Tornano i giovani, laddove possano avere accesso alla terra, e tornano le donne o continuano le donne l'attività che prima erano condotte dagli uomini. L'agricoltura rimane ancora un settore dove gli ultra 65 anni rappresentano la maggioranza, spiega Matilde Ferretto. I giovani al di sotto dei 40 anni e le donne sono in minoranza, ma sono una ventata di novità e con un bagaglio culturale più pesante. Molte le donne laureate, attente all'innovazione, propense a fare rete, prendono le redini delle aziende di famiglia, come in Pianura Padana e nel settore vinicolo, o si inventano un mestiere tutto nuovo in alternativa alla disoccupazione. Le donne sono più attente alle produzioni biologiche e tornano anche a vecchi mestieri, come le poche donne pastore delle Alpi, racconta Matilde Ferretto, tante invece le creatrici di nuove imprese. Abbiamo poi le giovanissime istruite, che sono quelle delle start-up, cioè quelle che, inserendosi in un contesto, per esempio, cosa se ne fa la Sardegna della lana, che non è più un prodotto richiesto, si inventano un uso della lana, per esempio, per depurare l'inquinamento dell'acqua da petrolio, oppure produrre tessuti da sottoprodotti della frutta. Le donne hanno questa caratteristica, sono sempre in rete e sono molto aperte a innovazioni, sia tecnologiche sia di mercato. Tra i giovani che tornano alla vita dei campi c'è anche chi recupera varietà di semi dimenticati. Carlo Maria Recchi, a 26 anni, fin da piccolo ha sognato di fare l'agricoltore. Partito con 40 semi recuperati grazie a un progetto scolastico del suo istituto agrario, ora coltiva 14 ettari di terreno in provincia di Cremona ed è l'unico produttore europeo di mais corvino. Caro ai Maia, questo particolare mais nero in Europa era fuori produzione dal 1700. Il mais corvino ha lo stesso pigmento del mirtillo, quindi ricco di antociani, flavonoidi e beta-carotene, quindi è un potente antiossidante e previene il radicale libero. Inoltre ha il doppio delle proteine rispetto a un mais comune e meno carboidrati. Cosa fa nella sua azienda? Coltivo appunto il mais corvino, che trasformo nel mio mulino a pietra che ho costruito nel 2017, quindi commercializzo farina per fare prodotti da forno come pane, pizza, focaccia e tutta una linea di prodotti senza glutine come pasta senza glutine, biscotti, gallette e una birra artigianale. Ma non c'è solo la campagna, c'è anche chi crea aziende in città. A Roma, a due passi dal raccordo anulare, c'è la cooperativa Agricoltura Nuova, nata nel 1977 dalla volontà di un gruppo di giovani disoccupati, braccianti e contadini. Oltre a creare occupazione in agricoltura, la cooperativa aveva anche l'obiettivo di impedire l'edificazione in uno spicchio di campagna romana incassato tra la Pontina e la Laurentina. Un sogno realizzato. Oggi su quelle terre si producono ortaggi biologici, si allevano pecore e galline. Più a nord, sulla Tiberina, Arianna Volpiani ha lanciato Orto Senza Fatica. Il progetto consiste nell'avere un orto senza il problema, la fatica di coltivarlo, perché di tutti i lavori si occupa la mia azienda. È un progetto nato per le famiglie che non hanno il terreno, che non hanno il tempo e non hanno magari il pollice verde per coltivare un orto. E come funziona? Il canone è annuale, si sottoscrive questa, diciamo, adozione dell'orto, dopodiché si viene nei giorni di martedì, giovedì e sabato in azienda a raccogliere i prodotti. Le prime volte lo facciamo in insieme, dopodiché le persone sono autonome e possono arrivare nei pressi del loro orto e raccogliere tutto il fabbisogno settimanale. A Roma c'è anche chi produce miele in città, racconta Raffaele Cirone, presidente della Federazione Apicoltori Italiani, un progetto scientifico educativo che consente inoltre di riempire tanti barattoli. Apicità è un progetto che coordina gli apicoltori presenti sul territorio di Roma Capitale in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, in particolare il Comando dei Carabinieri Forestali, attua un'attività di biomonitoraggio ambientale attraverso le api. Sono molti anni che siamo impegnati come Federazione Apicoltori su questo fronte. Le città stranamente sono un ambiente congeniale per l'allevamento degli insetti, la presenza delle api in particolare si avvantaggia di tante fioriture spontanee e coltivate. Dove avete iniziato a produrre miele a Roma? A Palazzo della Valle, che è la sede storica di Confagricoltura, l'organizzazione della quale come apicoltori siamo ospiti, e siamo nel pieno centro di Roma, nel quadrante per intenderci che porta verso il Pantheon, Piazza Navona, Largo Argentina. 30 metri dal suolo, una terrazza panoramica, siamo circondati da testimonianze del Rinascimento italiano, la gran fortuna e anche un gran bel apiario. Quanti sono gli alveari in città e dove li avete collocati? Gli alveari in città sono alcune centinaia, ci sono 20 postazioni, ogni postazione comprende in genere 3 alveari e vanno dalla postazione storica, quella di Palazzo della Valle, fino a delle postazioni vicine a parchi naturali piuttosto che addirittura Città del Vaticano in zona extraterritoriale dunque. Ma si può produrre del miele di ottima qualità e si può vendere? Ci sono degli apicoltori che fanno parte del progetto che ottengono del miele di ottima qualità e lo possono vendere. Questo non deve sembrarci strano, si fanno prima delle analisi fisico-chimiche, organolettiche, i residui che possono essere di impatto ambientale, e se il miele risponde a tutti i criteri che la legge fissa può essere tranquillamente commercializzato. Il mestiere della terra, insomma, non è più considerato l'ultima spiaggia di chi non ha istruzione. L'agricoltura 4.0 di precisione rappresenta il futuro. C'è chi, in Aspromonti, a 19 anni, ha ideato un collare antilupo con processore a ultrasuoni per mettere in sicurezza il gregge di capre. In Basilicata, le mucche al pascolo sono monitorate grazie a un super collare con pannelli solari che fornisce informazioni in tempo reale. In Valtellina, una stazione meteo piazzata nel frutteto dell'azienda agricola di famiglia aiuta un giovane agricoltore a organizzare la produzione di mele biologiche. E in Irpinia, Nicola Urciuolo usa un'app per gestire il suo allevamento di lumache in un'area di 5.000 metri quadrati. Nicola, 28 anni, ex muratore, nel 2012 ha perso il lavoro. Per un po' ha lavorato in fabbrica e lì ha avuto l'idea di coniugare la passione per l'allevamento di lumache, nata guardando un documentario in TV, e la tecnologia. Tutti questi piani che prendevo gestivo sempre nei terreni. E poi così man mano ci ho messo in atto l'allevamento. Eppure dalla fabbrica ho visto pure i robot che erano tutti automatizzati. Allora ho detto, ma che non lo posso portare anche io in agricoltura? Così con Saverio Fruncillo abbiamo creato un'applicazione personale, cioè in poche parole che consiste? Abbiamo collegato una Raspberry Pi vicino agli irrigatori. Nel telefonino abbiamo proprio un'applicazione personalizzata che possiamo sia via gli irrigatori e sappiamo anche i consumi dell'acqua. E poi quello che abbiamo aggiunto in più è anche il Google Assistant, nel senso che se siamo impegnati o non possiamo utilizzare tra virgolette la tastiera, pure con un comando vocale possiamo fare via gli irrigatori, però l'importante è avere una linea internet. Quanto vi ha aiutato questa app che avete inventato? Tantissimo, il tempo materiale che tu hai risparmiato, nel senso che non devi essere per forza lì nel luogo fisico, ma anche se sei a Milano, a Roma, o puoi via direttamente gli irrigatori. Poi abbiamo applicato anche una telecamera che possiamo vedere pure direttamente, cioè l'allevamento, pure se partono, o per la vegetazione. L'allevamento di lumache poi vengono fatti dei sfalci e tu con la telecamera ci vai molto selettivo. Nicola ogni 18 mesi da solo e grazie all'aiuto della sua app produce 3 tonnellate di lumache usate sia per la gastronomia sia per produrre creme cosmetiche. Tecnologia, informatica e telecomunicazioni aiutano così la produzione e consentono di gestire meglio le risorse. Ma, avverte Veronica Barbati, presidente Giovani Coldiretti, c'è un problema infrastrutturale da risolvere per avere un'agricoltura 4.0 di precisione più diffusa sul territorio. Se poter far sì che queste piattaforme di carattere molto spesso informatico, basate su analisi dei dati e quant'altro, possano essere messe in piedi in queste aree, è necessario assolutamente un investimento di supporto in termini infrastrutturali, altrimenti tutto questo non si potrà purtroppo, ahimè, mai realizzare o comunque molto difficilmente realizzare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.